fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo in collegamento su Restoradio Convento, la web radio qui al convento di Ronato del Garda. Stiamo festeggiando il Capodanno e lo stiamo festeggiando con tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questa bella serata e questa bella festa. E abbiamo anche un gruppo di ragazzi che sono venuti, insomma, a raccontarci le prime impressioni di questi primi minuti del 2020. Benvenuti ragazzi, vai, volete fare un giro di presentazione ai microfoni? Buonasera, sono Alessandro. Ok. Volevo augurare a tutti buon anno. Perfetto. Roberto, tanti auguri a tutti. Perfetto. Greta, auguri. Greta. Io sono Mattia, tanti auguri a tutti e passate a fare un giro al convento che è stupendo. Bravissimo. Io mi chiamo Alex, buona serata a tutti, auguro un buon anno a tutti e passate per il convento che è un posto magnifico. No, oh, grazie, grazie ragazzi. Allora, da dove venite? Diteci un po'. Serniano. Serniano, che si trova dove? Provincia di Cremona. Ah, provincia di Cremona. Bene, bene. Cosa siete? Un gruppo di amici? Un gruppo di amici. Solo voi cinque o ce ne sono altri fuori? Sparsi. Sparsi. Quanti siete stasera? 12. 12. Bene, bene, dai, un bel gruppetto. E uscite insieme da tanto o è prime volte? Sì, è un bel po' di anni. Un bel po' di anni. Purtroppo, sei già stufato, ragazzo. Sei già... Quasi cresciuti insieme. Addirittura? Dai tempi delle scuole, quindi, no? Lui addirittura dall'asilo. Ah sì, non vi siete ancora abbandonati? No, no. Allora, neanche... Anche voi due? No. No, più tardi, loro due più tardi. No, dicevo, neanche fosse, così dire, l'amore di una vita, praticamente. No, mai innamorarsi, ne. Non si sono mai innamorati, dici? Mai, no, mai in innamorati. Tutto questo tempo che si conoscono non c'è mai stata una fiamma che è scattata, no? Poi si fa pace. Eh beh, vedi, come ogni coppia che si rispetti, bravi, bravi. Allora, cosa fate nella vita? Di bello? Lavorate, studiate ancora? Lavoriamo tutti. Lavorate tutti? Cosa, dove, più o meno? Agricolo. Agricolo, ok. Di ok. Io. Ok. Io in un allevamento di maiali. Ok. Io faccio l'agricoltore anche io. Oh, bene, bene, che lavorano, insomma, i beni primari, no? La terra, usano le mani, ecco, come si faceva un tempo. Vai, volete salutare qualcuno, magari il 50% delle persone che è rimasto fuori? Ma ciao Diego, ciao Claudio. Poi ciao, già non li conosco, Gabri. Io volevo dare un saluto speciale a tutto il mio paese. Bravo. Possiamo fare un ultimo saluto. Al Sepuede di Serniano. Bar Sepuede. Bar Sepuede. Ah, il bar, è un bar? Venite a trovarlo. Cos'ha di speciale? È un bar... senti a casa. Accogliente, sì, è il tipico bar di paese, no? Il tipo bar, se non sono matti, non li vogliamo. Dove allora ci stiamo bene. Anche noi. Ma quanti abitanti fa Serniano? 4.000, quindi molto intimo come paese anche, no? Ci si conosce più o meno tutti. Bene, bene, dai. I matti del paese passano da Sepuede e dal convento. Ah, ok, passano di lì, fanno tappa fissa, una prima tappa, ho capito. Bene, bene, dai, allora salutiamo anche noi i ragazzi del Sepuede. E volete aggiungere qualcosa? Volete... A posto così, va bene. Allora noi vi lasciamo andare, o meglio, tornare a divertire, visto che c'è ancora un bel po' di tempo da passare in nostra e vostra compagnia qui a ballare. Allora grazie agli amici di Serniano e un saluto anche a tutti quelli che sono insieme a voi. Ragazzi, buon anno ancora, ciao! Ciao, grazie!